Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Io spero che la signora Giorgi presto possa non considerarsi più privilegiata per avere un lavoro. Questo è l'augurio e l'impegno che rivolgiamo ai giovani, naturalmente. Voi sapete più in generale quanto io creda nella ricerca e nell'innovazione come chiave di volta dello sforzo che dobbiamo compiere affinché l'Italia non perda posizioni ma ne guadagni ancora nella competizione mondiale. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. In apertura oggi le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, parole che mettono il dito nella piaga di due problemi fondamentali per il Paese, la mancanza di opportunità di impiego qualificato e stabile per i giovani, unita a un Paese che ha perso la propria spinta innovatrice fondamentale per dare opportunità agli under 40 di talento e un futuro anche a se stesso. Oggi vi aggiorneremo su alcune importanti novità della legge contro esodo e vi porteremo nuovi preoccupanti dati sulla condizione degli under 40 in Italia, ma soprattutto andremo a esplorare le opportunità di carriera oltre le Alpi per i studenti universitari. Parleremo di lavoro in Centro e Sud America. Lo faremo con un esperto, un altro giovane che ha scelto di giocare sul palcoscenico internazionale valorizzando il proprio capitale umano. Qui c'è molto da fare e c'è bisogno di braccia e teste, quindi i giovani sono benvenuti e ne arrivano parecchi da tutto il mondo. Mariano Erichiello, 29 anni, è leader dell'International Business Center per la multinazionale di revisione e consulenza PwC a Città del Messico. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Si va verso l'estensione fino al 2015 per i benefici previsti dalla legge contro esodo per gli sgravi fiscali agli under 40 che rientrano in Italia. L'emendamento inserito nella legge mille proroghe è stato approvato in commissione alla Camera. Ha aumentato anche il bacino potenziale che si amplia a chi ha maturato i requisiti dal 20 gennaio 2009. È un ritratto d'allarme rosso quello sulla condizione giovanile nel bel paese contenuto nel rapporto Istat a Noi Italia. Nel 2010 oltre 2 milioni di under 30, più di uno su 5, si trovava fuori dal circuito formativo e lavorativo. Parliamo dei NEET. L'Italia ne detiene la quota più alta nell'Eurozona e nell'Europa allargata siamo secondi solo alla Bulgaria. L'Italia è arretrata nel settore istruzione, gli investimenti non arrivano al 5% del PIL. Solo il 20% dei 30-34 anni ha una laurea. Infine siamo un paese anziano per indice di vecchiaia, in Europa ci batte solo la Germania. Il recupero dell'occupazione si è arrestato negli ultimi mesi del 2011, lo afferma Banca Italia, che rileva una ripresa del tasso di disoccupazione soprattutto tra i giovani e per l'Organizzazione Mondiale del Lavoro i giovani continuano a essere le principali vittime della crisi. Sempre più italiani, uno su due, sarebbero disposti a lasciare il paese per migliorare la propria condizione lavorativa, lo afferma il Work Monitor Randstad. Il 53% sarebbe disposto a trasferirsi se guadagnasse di più, il 32% a parità di salario per un lavoro più in linea con le aspettative. Per la Fondazione Studi, un giovane su quattro è disponibile a trasferirsi in altre regioni o all'estero per lavoro. Infine, per indagine Expertier, l'8% dei manager italiani è disposto a varcare le Alpi. Quali tipologie di giovani cercano le imprese italiane? Soprattutto commessi, cuochi, camerieri, informatici e addetti al marketing. Pochi dunque i profili qualificati, lo sostiene il sistema informativo Excelsior. Un cervello in fuga è la bresciana dell'anno secondo i lettori dell'inserto locale del Corriere della Sera. Anna Lombardi, dottoranda all'Università di Lione, ha superato personaggi quali Fabio Volo e Cesare Prandelli. Premio siciliano nel mondo all'ingegnere spaziale Vincenzo Paradiso, 38 anni, lavora all'ESA in Olanda. La musica continua a raccontare i talenti in fuga, ultimi in ordine temporale Litfiba con il nuovo album Grande Nazione e da poco sono pure in sala con un documentario che si intitola Cervelli in fuga e il racconto del tour europeo 2011 e degli incontri con i ragazzi italiani tra un concerto e l'altro. Marta Cagnola ha intervistato Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Sì, non si sta parlando di latitanti delinquenti ma semplicemente di persone che sono state costrette a uscire dall'Italia perché non riuscivano ad esprimere in Italia tutto quello che avevano costruito con i loro anni di studio o con la loro esperienza lavorativa. E quindi si sta parlando di, appunto, di Cervelli in fuga, che è il documentario che amici. Parla del nostro tour. Io sono mio caro amico che è un tecnico informatico spaventoso che dove è andato a lavorare a Amsterdam, la Tom, un programmatore da Tom, perché sono in Italia. Dura. Un motivo per restare o tornare. Più concorrenza significa anche più apertura, più spazio per i giovani, meno spazio per le rendite e i privilegi, più riconoscimento per il merito Ecco quindi che non si tratta solo di una grande azione economica, ma anche, noi confidiamo, di una grande azione sociale. Forse è solo l'inizio. Il primo pacchetto liberalizzazioni del governo Monti guarda anche ai giovani. Prevista la possibilità di svolgere il tirocinio o la pratica per l'iscrizione agli albi professionali nel corso dell'ultimo biennio di laurea. Decisa pure la drastica riduzione dei costi per aprire un'impresa. Per le under 35 nasce la società semplificata a responsabilità limitata sottoposta a regime agevolato. Il premier Monti, parlando a Londra, ha dichiarato: voglio assicurare agli italiani di talento che studiano all'estero che non li considero cervelli in fuga. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un capo dell'ufficio comunicazione allo European Spallation Source di Lund in Svezia, scadenza per CV 30 gennaio, info su est-scandinavia.eu. Un project manager con conoscenze informatiche al quartier generale NATO di Bruxelles, scadenza per CV 6 febbraio, info su nato.int. E infine un assistant professor al Dipartimento di Meccanica e Ingegneria dello Swiss Federal Institute of Technology a Zurigo, scadenza per CV 31 gennaio, info su ethz.ch. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Messico. Nome: Mariano. Cognome: Enrichiello. Età: 29. Città di origine: Napoli. Studi: Management delle imprese internazionali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Panama. Perché? Un programma dell'ISEC. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono Business Development Manager. Dove? In Messico. Tornerai? Ne parliamo tra 5 anni. La cantante messicana Paulina Rubio vive e il verano ci trasporta verso climi, speriamo, Mariano, un po' più miti, rotta verso Città del Messico. L'Italia sta disinvestendo nel principale asset del paese, la gente. Siamo in una fase depressiva, non investiamo sul lungo termine sulla formazione della classe dirigente del futuro. I migliori se ne vanno, mentre i giovani che restano neanche percepiscono le opportunità che ci sono varcate le Alpi. Allora Mariano, partiamo da questa tua considerazione a giovanitalenti@radio24.it per una domanda a bruciapelo. È così che l'Italia seleziona la sua classe dirigente, esiliando i migliori e promuovendo i più provinciali e mediocri? In parte è vero, non possiamo ovviamente generalizzare. Fortunatamente abbiamo molte realtà importanti, eccellenti, che se le giocano nel mondo grazie ai propri talenti. Tuttavia penso che la tua affermazione non sia fuori luogo e vi sono casi in cui non ci sono persone adeguate in posizioni dirigenziali, soprattutto nel pubblico questo accade. Raccontiamo la tua storia partendo dagli studi universitari. Nel 2002 ti iscrivi all'Università Partenope di Napoli, Management delle imprese internazionali. Allora, perché quella scelta, ma soprattutto quali erano le tue ambizioni? Mi iscrissi all'università con l'intenzione di laurearmi rapido per prendermi il famoso pezzo di carta e quindi poi partecipare a concorsi pubblici. Ma la tua vita prende una piega nuova 3 anni dopo, quando in Ateneo entri a contatto con ISEC. In brevissimo cos'è? L'ISEC è l'organizzazione più grande al mondo di studenti, gestita dagli stessi studenti ed è presente in 110 paesi da più di 60 anni. L'obiettivo è quello di sviluppare giovani attraverso percorsi di leadership, programmi di exchange internazionali. Un'esperienza che modifica radicalmente i tuoi interessi. Nel 2006 viene eletto presidente della sezione in Ateneo, il che ti offre l'opportunità di metterti alla prova nella leadership di un team. Da lì prende forma l'idea di lasciare Napoli e l'Italia, candidandoti a un posto da vicepresidente per relazioni esterne della stessa ISEC. Non eri ancora laureato. Dove ottieni il posto? Dopo un processo di selezione ottengo il posto in ISEC Centro America, che include Panama e Costa Rica. Quello era a tutti gli effetti un lavoro. Ci racconti com'è stato l'impatto col paese panamense? Cosa hai fatto in quell'anno all'estero? L'impatto col paese è stato eccellente, devo dire. Ovviamente quando uno legge Panama si crea delle aspettative forse sbagliate, poi quando ci arrivi e lo vivi vedi che addirittura raggiunge livelli di sviluppo anche superiori alla stessa Italia in termini di logistica, tecnologia. Inoltre Panama è una piazza internazionale, quindi ti confronti tutti i giorni con persone da tutto il mondo. Dal punto di vista professionale mi occupo di relazioni esterne, quindi relazioni con istituzioni, governo, i media, imprese. Qual è stato il lascito in termini concreti dell'esperienza panamense? Sicuramente acceso in me la consapevolezza che la migliore forma per crescere personalmente e professionalmente è fare esperienze forti all'estero. Sul fronte dell'educazione universitaria ricevuta in Italia, qual è il tuo giudizio? Credo che l'educazione in Italia sia di un livello accademico molto buono, anche se negli ultimi anni penso sia stata penalizzata da tutti questi tentativi di ridimensionamento. Poi sicuramente manca forse un approccio concreto e pratico, i giovani non necessariamente fanno esperienze professionali durante i loro anni universitari. Sicuramente un background accademico costruito in Italia ti crea competitività all'estero. Tu deciderai ovviamente di ripartire, ma due considerazioni. La prima, se impazzendo tu avessi optato per sondare le opportunità disponibili in Italia, vedevi all'epoca delle opportunità in grado di valorizzarti? Prima di ripartire ricevetti un paio di offerte lavorative, una anche interessante in termini economici, ma sinceramente non erano allineate al percorso che avevo intrapreso. Non avrei approfittato, capitalizzato insomma le cose apprese in Centro America, ed avevo un'offerta molto più allettante all'estero in termini di sviluppo professionale. Questa offerta arriva dalla multinazionale PricewaterhouseCoopers dal Messico, ti chiama un partner di PwC con cui avevi interagito all'epoca del tuo lavoro a Panama. Qui entra in gioco una riflessione tra segnalazione e raccomandazione. Questo partner ti coopta per chiamata diretta, dopo averti visto lavorare, ti segnala, non ti raccomanda. Allora Mariano, quanto su questo discrimine si gioca la possibilità per l'Italia di cambiare il modello di selezione della classe dirigente divenendo un paese moderno? Ne abbiamo parlato all'inizio. Io credo molto nel sistema anglosassone in cui è requisito presentare carte di referenze per selezioni e colloqui. Conosco casi in cui l'azienda addirittura ti paga una commissione se segnali un talento. Quindi credo che sia una forma per supportare i talenti, quella della segnalazione. Ovviamente raccomandazioni non meritocratiche ma clientelari non funzionano ed anzi ostacolano lo sviluppo di talenti. Secondo me il segreto è proprio puntare su istruzione e formazione. Cambio paese, cambio continente. All'inizio del 2010, come canta Giacomo Lariccia, cambi continente e ti sposti in Messico, dove nel giro di neppure due anni scali le posizioni gerarchiche. Da dove parti e dove ti trovi invece ora? Di cosa ti occupi? In Messico comincio come senior consultant e dopo sei mesi mi promossero a business development manager. Fondai una nuova business unit che si chiama il Centro d'Affari Internazionale e di cui oggi sono leader. Ho 9 persone nel mio team, tutti stranieri, tutti di ISEC, e ci occupiamo di sviluppare business con imprese straniere che operano in Messico o che sono interessate ad entrare nel mercato messicano. Mariano, domanda a bruciapelo: all'estero serve di più essere fedeli o ossequiosi e servili al capo o dimostrare di produrre risultati tangibili? Guarda, direi che dipende anche dal paese. Non dimentichiamo che in Messico, come in Sud America, la cultura ha origini latine. Quindi personalmente credo che produrre risultati sia una prerogativa fondamentale. Al contrario, sarebbe difficile andare avanti ad un certo ritmo di avere successo. Poi essere servili o ossequiosi, il che è differente dal rispettare la leadership del tuo capo, va contro i miei valori sinceramente. Quindi sono convinto che nonostante una persona possa avere voglia, ambizione, non bisogna mai negoziare i propri valori. Non hai neppure 30 anni, essere giovani, dinamici, intraprendenti è un handicap fuori dall'Italia o un valore aggiunto? Il Messico è un paese per giovani o per vecchi? È sicuramente un valore aggiunto ed è un requisito, anzi oggi è facile che ti trovi a lavorare con un cinese che ha 22 anni, parla 5 lingue e ha già 4 anni di esperienza internazionale, quindi è importante essere dinamici ed intraprendenti. Qui c'è molto da fare e c'è bisogno di braccia e teste, quindi i giovani sono benvenuti e ne arrivano parecchi da tutto il mondo. È incredibile vedere la quantità di giovani talenti italiani all'estero alla guida di aziende importanti o di proprie iniziative imprenditoriali. Ci scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Tu ci parli tutti i giorni per lavoro, cosa ti dicono quando toccate il tema Italia? Alcuni dimostrano il rammarico per quello che sta accadendo, altri commentano che meno male che ci abbiamo le filiali in Latin America, almeno facciamo il bilancio positivo grazie a queste. Comunque la maggior parte insomma non ci vuole tornare, sta bene dove sta, e nonostante ciò comunque c'è un grande attaccamento alla cultura del paese. È vero che tra un po' vai in Brasile? Sì, è il mio next step. Mariano, domanda diritto: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Secondo me rimaniamo a giocare con le regole della vecchia economia. Non credo sia sensato continuare a parlare di crescita, di PIL, di consumi, perché dobbiamo spingere le persone a consumare cose che forse neanche servono. Quindi per me non senso, ed è quello che poi ha portato alla crisi nel mondo occidentale, la sostenibilità ed oggi la nuova economia. Quindi la provocazione: per te è più sostenibile inviare un biscotto italiano in Cina o mandargli semplicemente la ricetta ai cinesi? Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Mariano Enrichiello, 29enne leader dell'International Business Center per la multinazionale di revisione e consulenza PwC a Città del Messico. Mariano vi ha approdato dopo una laurea in management delle imprese internazionali a Napoli, parallelamente alla quale ha cominciato a coltivare una carriera fortemente internazionale. Entra nell'associazione studentesca ISEC spostandosi fino a Panama. Dopo la laurea accetta un'offerta per PwC a Città del Messico come senior consultant. In pochi anni scala le gerarchie arrivando a capo di una business unit da lui stesso fondata. Mentre progetta un trasferimento in Brasile, osserva delle Americhe, un paese, l'Italia, che non investe in giovani capitale umano e in ultima analisi classe dirigente del futuro. È qui con noi in studio Chiara Pizzolla, presidente di ISEC Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Chiara, quante storie come quella di Mariano hai ascoltato tra le tante che hai conosciuto in ISEC? Quanto andare all'estero già da studenti aiuta a prendere coscienza delle numerose opportunità di crescita professionale fuori dall'Italia? Ho sentito veramente molte storie come quella di Mariano, sono tanti tutti gli studenti che sono partiti grazie ad AIES e che poi si sono fermati all'estero e quindi poi non sono più tornati in Italia. Sicuramente l'opportunità di andare all'estero apre gli occhi, cioè una persona che va all'estero vede tantissime opportunità e quindi, come diceva anche Mariano, non ci vuole tornare in Italia perché sta bene dove sta e quindi non c'è rammarico perché non tornino, cioè insomma, come biasimarli. Mariano ci ha parlato un po' di AIES, ce l'ha presentata brevemente, tu vuoi aggiungere qualcosa? Si occupa principalmente di mobilità internazionale, appunto l'esempio di oggi è evidente, e quello che fa AIES non è soltanto stage di tipo professionale all'interno delle aziende multinazionali in tutto il mondo, ma è anche sviluppare degli stage internazionali in Italia, quindi stage che abbiano un interesse di volontariato, un impatto positivo sulla società. Quali sono i principali programmi di scambio internazionali? Come si fa anche a fare application? Ci sono due programmi principali, si chiamano Move Impact e Move Future. Move Impact è principalmente centrato per stage di tipo di volontariato, come dicevo prima, vanno dal mese e mezzo fino a 3 mesi e sono, diciamo, soprattutto sviluppati in quelli che sono i paesi BRIC o diversi paesi in via di sviluppo. E poi c'è il Move Future, che invece sono questi stage di tipo professionale che chiaramente dipendono dal percorso universitario che una persona ha avuto e quindi sono all'interno di aziende. E quanti studenti italiani muovete nel mondo ogni anno? Dove vanno soprattutto? Per fare cosa? 15.000 studenti in tutto il mondo, tra 110 paesi, mentre in Italia sono partiti 300 studenti italiani. Più di 300 studenti italiani sono andati all'estero a fare un'esperienza tra gennaio e dicembre 2011. Sicuramente sono numeri importanti e credo che ci sia la necessità che molti più studenti italiani partano e vadano all'estero. Vanno soprattutto in India, Brasile, in Russia, quei paesi BRIC. Stanno paesi già emergenti. Intercettando il futuro, mi pare capire. Mi pare proprio di sì, il prossimo sarà il sud-est asiatico. Chiara, vorrei concludere con una considerazione fatta da Mariano. I migliori se ne vanno all'estero e chi resta in Italia neanche si rende conto delle opportunità fuori. È su questo crinale che vive il paese, tra una classe dirigente giovane di grande talento, a volte un po' autoesiliata, e una classe dirigente provinciale rimasta qui al solo scopo di replicare modelli conservatori. È per questo che l'Italia non si innova. Ma io sono prettamente d'accordo con Mariano. Il punto è che parlare di fuga di talenti ormai è una cosa abbastanza nota, cioè non è nulla di nuovo, si sa che i migliori vanno all'estero e si sa che i migliori troviamo soluzioni. Sì, il punto sarebbe investire sulla ricerca, cambiare il sistema educativo e tutte queste cose, però secondo me la cosa migliore più a breve termine è che questi, cioè gli studenti e quindi i giovani, mi prendo anche nella categoria avendo 23 anni, partano, vadano all'estero e vedano l'estero non come una destinazione ma come un mezzo per poi tornare in Italia, una prerogativa, una condizione sine qua non, l'Italia altrimenti non si rinnova. Tu dove vedi il tuo futuro? Ma io ti posso dire che vedo il mio futuro all'estero molto presto, vorrei fare uno stage in Brasile, in Africa, sud-est asiatico, e però poi il mio futuro lo vedo in Italia perché vorrei diventare un imprenditore in Italia. Grazie, in bocca al lupo a te e all'Italia. Okay. Mariano, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Bisogna essere flessibili ed avere un grande spirito di adattabilità e voglia di vivere la diversità, che poi oggi è quello che può fare la differenza. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova immigrazione. Oggi riprendiamo la nostra inchiesta a puntate sulle sezioni di Italians Online, la più grande comunità virtuale non di espatriati. Ci trasferiamo in Ungheria, paese che non sta vivendo certo un momento facile, ma dove si può trovare un punto di approdo, come ci spiega Eugenio Calabro, amministratore di IOL Budapest. La sezione è stata fondata tanto tempo fa, quando è ancora in Italia, 2004, sono i primi eventi, 2004-2005. Di iscritti oltre 200. Che tipo di italiani, giovani professionisti, migrano a Budapest o in Ungheria? Ci sono tantissimi tipi di italiani che ho incontrato, che hanno una professione nelle mani, che ha aperto molte attività di ristorazione. Poi ci sono tante altre persone che vengono qui e trovano lavoro nelle multinazionali. Quali sono le professioni più richieste o comunque dove i nostri giovani trovano più facilmente lavoro? Nell'informatica, settore dell'informatica, settore bancario, poi ci sono tantissime altre attività qui in Ungheria. Meno professioni intellettuali, meno richieste. Ad esempio? L'ingegneria, la medicina, la giurisprudenza. E che tipo di contratti trovano? Economicamente sono un terzo. Il contratto che stipulano con le società sono molto più bassi a livello economico. Anche a livello di sindacati, i lavoratori qui hanno meno diritti dell'Italia. E allora cosa li spinge a venire in Ungheria? Due motivi: la voglia di cambiare paese, fare un'esperienza all'estero, oppure perché hanno trovato un lavoro nelle multinazionali, quindi li mandano qui per lavorare. Tu riscontri, anche parlando con i giovani che incontri a Budapest, una fuga in qualche modo dall'Italia? Assolutamente sì, io adesso che da poco sono amministratore di sezione IOL, sono stato contattato da tantissimi italiani, non solo se non ho contato il numero di email con invio di curriculum affinché io potessi conciliare o trovare un lavoro. Quindi tu dici i contratti sono peggiori, le condizioni anche di protezione magari non sono come in Italia, però nonostante questo i giovani italiani cercano sbocchi anche in Ungheria. Sì, la qualità della vita è nettamente superiore rispetto a moltissime altre città italiane, e anche se lo stipendio è più basso, però il costo della vita è inferiore, soprattutto all'Italia, alle grandi città. E cosa li spinge ad andare via dall'Italia? Quello che ha spinto me, io facevo la libera professione come ingegnere, libera professione, quindi indipendente, avevo grosse difficoltà a farmi pagare, non avevo una sicurezza nel futuro, non potevo fare programmi. Per chiudere le attività di Yol Budapest, quali sono le più frequenti che organizzate? Campus estivi, dei incontri di giochi per i ragazzi, oppure io organizzavo delle cene. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net sezione Budapest. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Da questo mese nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere l'Italia un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.